Hola. Attenzione, 23. Lui, lo sapevo che c'è il tocco. Perché se vai su 23 c'è il tore. Per forza. Stiamo aspettando gli altri a Gio Maria. Ma lo sai già? Ieri no, oggi non lo so. E io per migliore che le accendo tutte le radio perché le faccio scaldare. Che non c'è nessuno. Ieri ho acceso ma non ha risposto nessuno. Oggi non lo so. Come mai non stavo più entrando? Perché lascio acceso, non entra nessuno, che cosa hai tra fare? Ha ragione. Ma se non sabato stavamo parlando con Gio Maria. Ci sentivamo, sia venerdì lo stesso, poi perché si sentiva male. No, vabbè, praticamente sabato io esco, quindi me ne esco la notte, quindi mi devo preparare tutto, portare giù il cane, eccetera, eccetera, prima di uscire, quindi sono impegnato, non entro. Senti un rumore, cosa rubiani? E lo deciso, ti ho salutato. Salutato l'attore hai. Salutato l'attore tu. Saluta. Saluta l'attore. Sasco di solato. Sì, la gente giusta. Certo. E voi? Io coraggioso, amico mio. Cosa c'è? Su cosa c'è? Mi sta guardando. Io piace una chitarretta, no. Drummito. Ah, drummito, sì. Mi ha detto. No, vabbè, comunque, io ogni tanto già accendo, già ci sono, dai. Quando ho tempo ci sei, già accendo. E ogni tanto se ne intende qualcuno, se ne intende, non ne ha tanto però. Vabbè, purtroppo la gente non c'ha più la stessa passione, a me mi è rimasta, perché se c'è gente io entro. A me è rimasta lo stesso, ogni tanto entra in Franco, Marino, e poi faccio nessuno. Vabbè. E se per buone della mia, ragazzi, come si può fare a giorno? Se è di scegliere, scendi. Sei in casa, sei preparando. È presto, perché non portare 7:30 solitamente. E oggi, ma tu mi sa mimmo, non so cos'è. Potrei fare le mani che arriva. Tiro un buccio in base, lo vedi, sei più di zendi. Non la smette, no. Mi muso. Si sente che tu fai il cenaglio a me fare. Vabbè, ecco, mi dispiace cazzo che devo andare, ma ce l'ho porto perché sennò poi se andiamo me la fa in casa, è un casino. Bravo, là, ci sentiamo a te, alle prossime, dai. Mi dispiace che non posso trattenere. Ehi, non fa nulla. Già ci risentiamo. Se vado che c'è qualcuno, lo so acceso. Tanto sono risetto il zitto, non entra la Gio Maria. Lui verso le 8:45 se ne va. Sì, quello sì, anche prima se ne va. E vabbè, dai, ci risentiamo allora. Aspetta, adesso l'ho smessa perché la sto accarezzando. Speriamo che tenga la storia. Ha smesso perché la sto accarezzando e sta scudendo l'acqua. Forse si sente poco calcolato, già ne so. Deve essere che calcoli poco. Paghi i suoi. Allora, mi dice il Vangelo, si è dormito, mi ha detto arrivederci. No, io lo coccolo sempre, Burarelli, no, quello no. Quello già è sempre coccolato. E sì che mi sta facendo quello perché lo sto coccolando. Allora, avrai la lascia il coccolato. Quando te lo richiede, capito? Quando vuole essere coccolato, per dire io sono seduto nella poltrona, non c'è il braccio giù, lui mi va sotto al braccio per grattarlo. Delizio. Vabbè, vuol dire che gli piacciono le coccole. Oppure mi tocca con la zappa, per non lo capire. vabbè, tutti i cani sono uno diverso dall'altro e ci vogliono coccolati. Ma loro, guarda, ti danno un amore incondizionato, proprio, guarda, sono delle creature che non c'è. Infatti è così, no, ma il mio, quando si può coccolato, ma banda, ma mi dice, vabbè, amico correggi. Appena cominciare, ti lascio il tocco, che sta di nuovo cominciando a frignare, dai, ci sentiamo, scusa, ma no, sta sempre frignando, cosa c'è, andiamo giù, vedi come ti va, io ti abbiamo avuto via e l'hanno allungato. Vai, va a città, magari c'è più scendi. E vuoi farla in fretta. Sta andando, là. Ci sentiamo, ciao. Ok, ciao già, alle prossime. Che porco stavi facendo? Ah, buonasera. Era fare delle con Gianni, si ne va. No, per forza io ascolto. Ascoltate, stavi in ritardo solo. Affaccendato sempre, ragazzi, per carità. E vabbè. Adesso siamo arrivati, eccoci qua. Meglio tanto che mai. Ma prima è pressa. Se riprende cosa, prima a fare i cerveni ad a voi. Se non è venuto, si entra. Io te appoggio. Io pure. E la ciucciucco, va bene, ciucciucco. E beh, come va? Insomma, sta pure in grandese. Ecco, lui per carità. Ah, mi sento più benino oggi, va. Meglio così. Ah, non senti qua, ciucciucco. Buonasera, Antonio. Buonasera, Antonio. Beh, sentito anche a te. Antonio. Sì, domenica c'era anche Giuseppe Leoncino. No, assolutamente non c'era Giuseppe Leoncino. Non c'è neanche il servizio addirittura, non sono andato. C'era mia zia, la verità, mi sono sapere. Sembrava un cavallo acrobatico, sembrava a casa, all'età che c'ha. È arrivata con la carrozzina e stava spingendo la carrozzina. Ha detto, ma la cazzo è... mi sembra cazzo una zingara questa. Che in pratica spingono le carrozzine e mettono la modesta dentro. E mi sembrava che ci sta la voce sua, no? Così tanto, ma mi sono sbagliato allora, pensavo che ci fosse anche lui. No, mi dice che noi, va bene così. Allora so. Io la Giammaria, dimmi lui. Ma che ci racconti oggi? Stasera l'ho trovato a Franco California, a LG, Piazzale Segni. Via, tre carrelli di roba, via, la provincia va strutturando, ce l'ha fatta. Ma da Edo, ce la prenderà a provvista. Ma conoscendo lo stavo, e anche di giro, e si sta lui, e sta chiacchieratina è andato. Hai già che non sei in treno, dici che non vedi più lui. Lui non vuoi entrare, ma che c'è la mia facciata. Chi ti prendi qui, uè? Beh, Antone. Io qua sono. No, Giuseppe non c'era con noi domenica, facendo quelle... E c'è un anche detto, non c'era nessun problema. Eravamo io, Ottore e... cosa? E Giovanni e basta, poi non c'era nessun altro. Eravamo in tre dell'Ave Maria, eravamo... Poi quando ho sentato tutto, ho risposto e ti ho salutato pure, figurati tu. E io quando mi sono affacciato lì, gli ha passato, non gli ho visto ugualmente, ho visto il fiatore, così che... E vabbè, anche quello doveva fare, avete fatto bene, per cui tanto, un paio d'ore o un'oretta. Quest'anno abbiamo camellato quasi un'ora e mezzo, forse, ma neanche due ore siamo arrivati in chiesa, la verità. Comunque forse tu quello che hai visto è cosa, è Danilo Suppi che era con me, che gli ho dato un microfono, hai capito? Stavo aspettando lì alla fermata del tram vicino dove abita Antonio Bombolo. Ah, ho capito. Era Giovanni che l'ho visto e forse mi sono affacciato troppo tardi a Giovanni che l'ho visto. Già c'era già sto. Era all'inizio, era davanti all'inizio. Ah, ecco, era passato anche a Torino, per cui io l'ho visto, io va bene. Tutto bene, meglio così, va benissimo, so. Ma va tutto bene. Non sono andati bene. Ah, io che sono andato male. E aria non c'era, mi sono affacciato. Ora, 5 minuti. Cazzo, dopo un'oretta senti che ci provi di freddo, cazzo. Cazzo, ma brividi, cazzo, per carità. Ma... Sta è passato, meno male, ci chiama, siamo tranquilli, vai. Infatti. Bisogna stare attenti alla rietta che tira. In un momento va in casa, dopo è meglio un turno freddo. Piano con il funaria. Mia moglie mi ha detto, dice, la prima parte si è messo nel nicchio, vedrai i chiari non le prendi. E a Ugrino, sei interrato. Guarda un po'. Ehi, cazzo, era così, mamma, io cos'hai da impiccare di più, capito? E la paesaglia a carrogna, però, siamo di due cazzo di bici, per cui ti siamo andati, così è tu. Io non credo. Cazzo di bici, sì. Ehi, vabbè. Se da prendo di più, vuol dire, la sera. Ehi, a Torello è sempre... come il galletto, così a Torello. Magari, cazzo, è stato un galletto, cazzo. Allora, quest'anno abbiamo fatto camminare davvero, me, cazzo. Poi... cazzo, c'era quello della banda, cazzo, era rosso in faccia, come un coso, era. Mi ha detto, ma quest'anno perché vi ho fatto camminare, mi ha detto, sì, la verità ci hai fatto camminare, meglio così, mi ha detto, così prima arriviamo, prima beviamo, mi ha detto, ha detto, non sei Marco, gli ha detto. Ah, che non ci finisci. Perché di solito ci impiegavamo 2 ore e mezzo, quasi 3 me. Al buio, proprio alle 6:30, 7 eravamo arrivati lì alla chiesa. Quest'anno invece siamo arrivati molto, ma molto prima. Non ti sei stancato? No, stancato non mi sono stancato, in verità. Anzi, ho fatto camminare la gente, cazzo, c'era, ogni tanto si fermavano. Il cazzo è, ho detto, Giova, falli camminare, no, aspetta, cazzo, che c'hanno mal di gambe, mi ha detto. Ho detto, ma qua siamo fermi, falli camminare a futtidini tu, fregata, gli ho detto, già, quando arrivano in chiesa sei sul sieno, gli ho detto. Poi non è che sia molto lungo il percorso, vai. E per cui la fa bene a fare una bella camminata così come l'avete fatta voi. Oh, sono già camminato tutti i giorni, per cui è bello arrivo, così è to. Sì, la ti credo. Cos'è camminata? Di 3 chilometri a Puglia. Prima c'è la parata, da voi c'è la pianura. Da voi la strada, da voi torna la parata. Ottimo direttivo. Va bene così, vai. Alla prossima, allora. Avvio. Alla prossima. Va bene, va bene. Riprendo ancora. Tu devi vedere quando mi è rimasto impresso, io che non ho fatto filmato, ma tu devi vedere, cazzo, ho visto questa signora, la verità, spingendo la carrozzina, non va piano davanti, sembravano quelle zingare, e c'erano le zingare che hanno la, le buste per riempire, per i vari cassonetti, eccetera, eccetera. Questo, questa qui, è ma me l'ho guardata, all'ultimo me l'ho guardata, quando, prima di arrivare alla Madonnina. Pure questa mi sembra, ecco mia zia, gli ho detto. Però mi passano avanti e ho detto, ma già sei tu, già io vedo. Sì, già sono io, mi ha detto, tanto bene, come stai? Sto bene. Cazzo, sembrava un treno, sembrava camminata. La carrozzina era avanti e dietro, cazzo, spingendo. Oh, boh. Cosa te ne sembra tu? Sì, no, già era vedere tutti. Ma gli ha dato, si filmava. Si prendeva la parola al fiato e tornavano a camminare. Ma non piace, già siamo arrivati. Beh, cazzo. Si doveva già arrivare qui. E non è che già molto lungo il percorso, per cui tranquillità, meglio così. Ah, va bene, ah, va bene. E cosa c'era di festa? Eh? Il compasso c'era la sera. Oh, e che c'era? Non lo so cosa era, poi c'era, invece il sabato c'era il collage. Ah, ah. Bravi sono, sì. I collage, sì. Un po' diversi, insomma. Siamo bravi. Io non ho bisogno di andare a venire. Non vi odia i collage, gli altri ricordi. C'era di... come si dice, in pratica la l'imitazione di quegli altri quello che c'ha la voce affeminata, uguale, perché con là ce n'è uno che c'ha la voce mezzo affeminata, la stessa identica cosa. Adesso non mi ricordo il complesso, ma già me l'hai capito. Sì, vabbè, io non ho bisogno che andate a finirla, che verrà prescritto la gira. No, ma mi ha detto che era pieno cosa, la verità, Luca, mi ha detto che c'era pieno di gente. Oh, è meglio così, ma come si dice, un po' di tanto. Ah, beh, quello sì, era un po' di tanto, sì. Vabbè, il fatto che c'erano questo servizio di tutti i sardi, la verità, che cantanti e cose del genere, non vanno più in continente, capito? Fanno solamente la Sardegna e basta. Se ne fotto, non capito come andare fuori, a fare qualche tournée, cose del genere. Non so perché, cosa che visto siamo presi, c'è un sacco di gente che canta, che cantava in italiano, eccetera, eccetera, se non... sono chiusi, hai capito? Sono chiusi come tipo i vertici dalla Sardegna, non escono più. Come t'azienda, d'altronde, che fanno le cose in silenzio, fanno. Cioè, se fanno la tournée non la fanno in televisione, a dire guarda, facciamo la tournée, eccetera, facciamo Milano, Torino, Roma, eccetera, eccetera. No. Lo fanno dopo il tempo, capito? E quindi si accontentano del poco che vi tirano, tutto lì. Ormai sabbi sono fatti così, quando poi c'hanno quei vizio lì, la lì non li puoi togliere. Prima ci andavo io, ma quando ero più giovane magari, però quando ci andavo io a quella festa, ci andavo alla sarda la maggior parte, solo alla sarda, mentre i canti sardi li hanno messi dalla parte, adesso sono per raggiungere di oggi il complesso che ne fa parte, per cui è meglio che sia così, bisogna andare sempre avanti, così è tutto. Infatti, no, quelli lì mi sembra che c'erano un venerdì che hanno messo, il sabato e domenica hanno messo il complesso. Prima ci telefono a sentire i canti sardi, cazzo. Ah, vabbè, ma non si è aggiustato nessuno, cazzo. Radio Pizzugliuzzi e tutte esaltate, per cui piacciono la roba spinta, va? Sì, no, roba le giovani, non le... cosa più giovane. E allora, mai, vabbè. Però quando facciamo le feste qua piazza tutto pieno di bancarelle, la domenica, la sabato, la domenica, io me ne scordo, tutto il viale fino a giù, e questo mi sembra a tenere la bancarella in dolore. Quindi erano i due vicini alla chiesa, quando è finita tutto quanto, hanno svoltato tutto e se ne sono andati. Ma è rimasto chiede che era diventato arrogoso. Dentro dove c'è il complesso, che non so quella forse veniva da fuori. Sì, il complesso era barassale di fronte, no? Dentro nel coso era, dietro la chiesa piccola. Ah, ecco, ho capito. Vabbè. Era bellina la festa, va, non è più come prima, però ormai le feste mi sembra che sta andando e scomparendo. Ah, già ci sono ancora, in molti posti che ne stanno facendo. Ah, la tenoce va di sempre, da sempre c'è, non è più come prima che li facciano al monte, Sacro Cuore e altri posti. Ormai sono tutti ritirati. Perché non ci siamo tutti. E chi tira qualche poco si rende in tasca, così altro è. Purtroppo è così, il discorso è quello lì. Ma comunque io ho visto che Cristian riesce a reggere molto, quello che c'è lì vicino a Lucca. Quando fa le feste, balli e cose del genere, è sempre pieno, e quindi ha saputo cogliere la palla al basso, capito? Per dire, faccio sempre dire. E anche a Santo Francisco, facciamo a San Francesco, facciamo una bella festa, che lì, e ci andava un sospetto, ma cazzo, molti anni fa, adesso che fa, a un diato, va, largo ai giovani, altro re. E vabbè, prima c'erano le feste in tutti i posti, c'era Monserrato, a Cabolazzo, la Fata di Feste, 4-5 anni fa, faceva addirittura il complesso, i fuochi d'artificio, hai capito? Poi ci andava a poca, non è che ci andava a montaggio, c'erano i, come si chiama, qui a Cabolazzi. Adesso quest'anno è cambiato il prete, hai capito il prete, preferisce risparmiare, il discorso è quello lì. Se no è stato bello fare la festa qua, io mi ricordo che era sempre pieno, era. Ci sono andato 2-3 volte, era sempre pieno, era. Io ci sono sempre la prima che sulla campagna che c'erano delle chiese, facciamo queste piccole feste di lì, si divertiva ragazza, trovavi tutto per roba da mangiare eccetera. Adesso mi sembra che sulla campagna non si fare più di queste feste, così è tutto. Purtroppo quando non ho bisogno di nana non si fa nulla, quando vai a là fai qualche cosa se lo vuoi fare. No, le rimuni. A fare questo in campagna non conviene adesso, perché come c'è la campagna tua, ti trovi i carabinieri vicino urbani lì a Santa Maria, ti portano immediatamente, oppure a Budi, a Sabildi, e quello è problema, invece prima con te non ce n'era, ti potevi anche bere due birre, quello che è, okay. Adesso il problema è quello, non può fate ritirare la patente per una festa. È tutto cambiato, dai. E tutto cambiato, ma ci telefono a quelle le feste di campagna, ci telefono, però vero, in quel periodo, certo che non era come adesso più, la gente più si è sviluppata e hanno registrato altre cose migliori, capisco, e quello è per cui piano piano queste cose muoiono anche, però so. Io ho visto che ai punti la fanno la festa, San Giovanni la fanno lo stesso, in altri posti la fanno, no, in altri ci sono la peronce, qualche volta non è più come prima, da quando è successo questa cosa del Covid, non si offende quasi più nessuno. Allora, per la sera si veniva anche da fuori, quindi però io per il sole, ma perché? E tutto cambiato. Va bene, sto là. Sapere la mia figlia, chi no? Sentiamo domani insieme. Grazie, la chiacchierata. Ciao, Toledo, riprendi, io chiudo. Ciao. Ciao, Giovanni, ci sentiamo. Stai bene, buon curiti, buon tutto. Avanti, tu. Sì, ciao Giovanni, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao. Antonio, ormai. Giovanni di Nai, cosa è finito? Non è quasi di più come prima. Non sono tutti che adesso la fanno. Non è questione di sole, no, è questione dei controlli. Perché prima io mi ricordo quando abitavo in questo Vittorio Emanuele c'era in piena estate. Non sei uscito, Antonio. Non sei uscito. Ma stai uscendo, Antonio. Uscendo. Adesso mi ascolti, sì. Cos'è, Antonio? La musichetta è buco. Sì, la musichetta perché non ho capito perché non stavo uscendo. Stava andato in protezione la ventola. Bisogna che la apro, la pulisco di tutta la polvere. Quando fa così non esce l'aria. Ma ti sento lontano e di voce. Hai entusiasmo. Tu senti in diti. Cos'è che hai detto? No, ho compreso nuda. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fino a 9, 10 non è uscito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso è uscito. Che andiamo e andiamo. Cosa ti è successo al microfono? Al microfono non è successo niente. È il cavolo in pratica, evidentemente si è fermata la ventola. Hai capito perché l'apparecchio è tutto fermo, l'apparecchio, e si è fermata magari polvere, cosa del genere, e quindi va in protezione, non esce in radio. L'ha già fatto una volta, quindi adesso devo aprire domani il cavolo, spolverarlo un po' dalla ventola e poi mi fate a posto. Vabbè. Si mette tutto a posto. Perché in pratica c'ho il cervo proprio attaccato alla finestra, hai capito? Entra la polvere. Pesci, se farete a polvere che entra, e si blocca la ventola. Bravo, grazie sensore, adesso io ho toccato sopra e caldo. Capito? E quindi non sta raffreddando, me ne sono accorto. Ecco perché fa così, me l'ha fatto già una volta, parecchio tempo fa. Quindi in pratica bisogna che apro il coperchio e pulisco la ventola con lo spazzolino e torno di nuovo a pompare. L'unica cosa è, l'unica cosa che devi fare. Vabbè dai Antone, io chiudo, mi vengo i bacilli. Ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Antonello, fammi bene. Ciao, ciao, fammi bene anche le tue, andiamo domani. Sì, ya.